ero qua su, ero a 27.405, poi mi sono spostato leggermente più in alto per fare delle prove, ma niente di particolare, capito? Sei sempre lì, no? Nel coso, sì. Questo è vero, io sì, in effetti fai così, tutto lì. Sempre positivo. E diciamo che come succede adesso con questo tipo d'ora, si dice quando lo 25 dB. E questo automaticamente con la verticale sta arrivando 5,35 rispetto al dipolo, va bene, la verticale è tutta un'altra cosa, è tagliata tutti apposta per difendere per 11 metri. Però ripeto, questo tipo d'ora ti ascolto bene, non ci sono nessun problema, nessuna scarica. Io ripeto, non sento nessun più di QRM. Si sente fra la propagazione, si sente anche perché praticamente cosa ti voglio dire, c'è lo skip un bel lungo oggi, capito? Non è corto, quindi è proprio la come si dice, la propagazione lunga, quindi dice ascoltarli i corrispondenti. Domani si rinizia a combattere, l'avversario, anche se in questo periodo siamo un pochino messi in una situazione così di disagio, ma comunque stiamo risolvendo. I sistemi sono arrivati, tutto a posto, adesso bisogna vedere che cosa intendono fare per quanto riguarda la cosa, l'inserimento in Abbanoa, tutto lì. Momentaneamente siamo ancora così, ci sarà un'altra giornata di agitazione il 28, spero che ne tolgano piedi. Comunque sto cazzo di presidente che abbiamo è un presidente di merda, è una persona che non vale a niente, pensa agli interessi suoi, non pensa a garantire i posti di lavoro di gente che per 20 anni, io ne ho 10 anni di servizio, ma c'è gente molto più anziana di me che per 20 anni ha dato il massimo per poter far sì che tutta l'operatività e tutto il sistema idrico andasse alla grande, e invece quest'uomo si sta perdendo proprio nel vero senso della parola in un bicchiere d'acqua, capito Ofra? Nel mio campo sempre casino, e tu sai qua, casino di tutti i giorni ne trovo, capito? Venerdì alle 11:30 sono partito là, e poi andare di nuovo qua, e poi controllare questo, e poi sono acceso giù a Caranciano, c'è un problema con l'asilo comunale Caranciano, che c'è un problema con la macchina, praticamente sono andato da delle altre persone e gli hanno detto che ci voleva entrare, bene, questa signora dice che il signore ci vuole entrare, non ne vale la pena, la butti via. Quelli del futuro, cazzo, non sia riuscito ad inserirsi nell'organigramma programma della società, nel senso che se io vado con una persona che è più capace di me e che chiaramente ha titoli ed esami per potermi insegnare qualcosa, è chiaro che io devo apprendere. Se io non apprendo vuol dire che sono un emerita ignorante, tutto lì il discorso, non ci sono molti discorsi da fare. Se questo è sempre in coppia con te, a parte vabbè l'altro collega Gianni, ma dico, se questo è sempre in coppia con te al lavoro e non comprende un accidente, tu non hai fatto canuda perché ti sei accorto che praticamente a lui del lavoro non gliene fotte un accidente. Thank you. fanno tanti quei cantini che la metà guarda, capito? È quello che mi dà fastidio e infatti io mi rivolto sono di malumore anche per questo motivo qua, in saturature, come tu sai. Non mi devi pure neanche riparare perché non c'è niente da provare, cioè, perché cazzo, sono cose veramente fanno, cioè, a me fanno schifo veramente, capito? Persone che ce ne fregano, tutto lì, persone che ce ne fregano, tutto qua. Il problema è quello, sì, saranno persone che se ne fregano perché magari l'azienda le valuta in una certa maniera, tu prendi il tuo collega Gianni, quella è una persona validissima, una persona che in quel campo ha delle grandiose capacità, però un altro difetto, che si è fatta in mano, allora io dico se praticamente le mie capacità sono valide, se le mie capacità sono per l'azienda importanti, se le mie capacità sono affidabili, io devo far sì anche che l'azienda, che io l'azienda sia affidabile, perché a me l'azienda mi dà da mangiare prima di tutto e poi mi dà delle mansioni molto importanti, perché come dici tu, se io vado in un ospedale a riparare dei macchinari e però ci vado con la testa in fumo, quel macchinario sicuramente verrà riparato, perché verrà riparato, ma non viene riparato mai come deve essere fatto, perché magari gli accorgimenti che io sto pensando in quel momento, so che devo fare quello, però so che va girugabo a bumbuglioni, non va bene, non va bene. Questo è l'effettivo di così, purtroppo, mi ricordo una volta che eravamo andati assieme lì, dove eravamo anche tu, con tutti i controlli di equipo, eravamo andati assieme alla domenica, ti ricordi che c'era il controllo, che c'era praticamente quel depuratore, non stava spingendo, loro, tutto lì, se ne sei accorto, hai detto quel depuratore, se non te ne sei accorto tu, chi l'avrebbe controllato quel problema lì, di quanto stava erogando, di quanto lo stava erogando. Magari se ne era accorto il mio collega il giorno dopo, però quando tu ti accorgi in ritardo di queste cose, non le segnali subito, non va bene, perché se io devo erogare 45 litri al secondo, devo erogare 45 litri al secondo, se non sto erogando 45 litri al secondo vuol dire che c'è una perdita da qualche parte, questa perdita va individuata, va segnalata, per far sì che non ci siano dispersioni idriche e che quindi tutto il sistema organizzativo funzioni in una certa maniera, il problema è quello, capito? Quindi prima le segnali queste cose, prima va meglio, insomma, capito? Il problema si risolve più facilmente, ma se tu passi, ti accorgi che se ho una lettura di un contatore, ieri stavamo erogando 45 litri, oggi ne stiamo erogando 36, ti pone il problema, perché se le pompe sono in funzione, il sistema di pompaggio non ha dei problemi, evidentemente sulla linea in uscita, quindi a monte dell'ingresso dove deve andare a finire l'acqua nel serbatoio, vuol dire che c'è un problema, vuol dire che c'è una perdita, così era, perché il giorno io ho mandato a fare un'ispezione di condotta, praticamente il risultato è che c'era una spaccatura su un tubo dove l'acqua stava uscendo nella campagna, quindi lì si fa la riparazione, si mette tutto a posto e si ripristina tutto il sistema al normale, diciamo, capito, la normalità, ma per un bel niente che passa, lo vedi, non ti dici nulla, lo sai, dico di Luca Barumuru. Sì, ma nei grossi alberghi non c'è un sistema di clorazione, praticamente quello a pompetta, dove l'acqua arriva ai macchinari già filtrata, clorata, in modo che ci sia l'abbattimento automatico del calcario, non c'è? Possono andare bene in una certa maniera e possono danneggiare l'altro, capito? Perché chiaramente l'acqua è già calcaria e quindi sì, automaticamente il problema sussiste anche sulla base che è quella dell'aspirazione per far sì che le centrifughe, i cestilli e tutto il sistema operativo di quelle macchine funzioni bene. Meglio sempre un controllo più accurato, capito, come fate voi che ogni tanto fate le manutenzioni e fate tutto. No, beh, da noi è direttamente, iniettiamo direttamente in rete con le pompe dosatrici, con le percentuali dovute. Io ho pompe dosatrici che erogano, per dire, 7 mg al giorno, ce ne sono più grandi, ne erogano 15, ne erogano 10, dipende dalla condotta. E poi praticamente l'uscita del potabilizzatore viene naturalmente poi controllata e ricontrollata dagli operatori che fanno ogni ora praticamente le analisi prima di emettere l'acqua in rete, ecco, tutto lì. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tore, venuto, Oh, a se lo vuoi, a Castelsardo, figurati un po'. A Castelsardo, fendi campagna elettorale. Fendi campagna elettorale, no, io no. Ci sono già passato in quel sistema, mi sono fatto fuori, no. Sì, c'ho tutto uguale a lui, non cambia niente, però so già cosa devo fare, la mia opinione, tutto, quindi non ho bisogno di andare a fare campagna elettorale nessuno. Intanto, guarda, il problema è sempre quello, promesse al momento in cui tutto il sistema operativo elettorale è in funzione, al momento in cui il sistema operativo elettorale finisce, non sei nessuno, sei una persona come tutti e non hai fatto niente. Invece tutto il supporto che tu hai dato al sistema elettorale stesso viene a cadere, viene così. Sì, Claudio, per dire, mi ha procurato 100 voti, 200 voti, 300 voti, però un grandissimo amico, sì, Claudio, boom, al momento che finisce la campagna elettorale sei un imbecille come ti eri prima. Tutti promettono quasi e molti. A me hanno offerto un lavoro qua, praticamente mi hanno offerto 2.300 euro lì a quel palazzo alla Bartur, manutentore tutto l'anno, qui traduccio, e sono indeciso cosa fare. Vabbè, tutto l'anno fra, però devi tenere conto anche che tu devi portarti via la famiglia e lì chiude la porta, perché non è che dal Golfo Aranci puoi stare tutti i giorni a viaggiare, no? Ma infatti qua io non è che mi piace andare fuori, capito? Non è che sono tornato qua, capito? Già ho fatto soltanto 2 settimane fuori per fare un corso di aggiornamento, ci vado a Danuscia con il mio Veneto, ma per carità, guarda, sembravo che ero in galera lì, sempre più c'è un molto freddo. L'ambiente è molto diverso da qua in continente, oh. L'ambiente del continente, ecco, è diverso, sì. Capito? È diverso, sì. È perché sta abbaiando il cane. Adesso mi preparo e faccio un salto lì, dai. Perché sta abbaiando il cane. Ogni tanto abbaia qualche, sicuramente è arrivato a Gigi, no, con Gigi, no. O è un'altra di cose, di Sandra, cosa, ma non mi rammento, vabbè. Ah, Mari? Gappa. Va bene, fra, dai, mi preparo e faccio un salto lì, facciamo due chiacchiere, dai. Così saluto anche alla signora che da tanto non ci faccio. Dammi il tempo di prepararmi, fra, e ci vediamo qua. Comunque questa radio va perfettamente bene e soprattutto questa direttiva polarizzazione orizzontale, non l'avevo mai provata, la stavo usando praticamente per i 10 metri, 10, 20 e 40. Però va bene anche qua in 11, risuona molto bene, stazionaria ne ha zero, è vero che il segnale è abbastanza, come ricezione è abbastanza buona. Mi da sapere, così magari quando mi devo spostare in banda laterale non ho bisogno di andare in verticale, capito? Vado direttamente in direttiva, ciccia, poi magari da parte tua c'è un segnale, da parte di un altro c'è un altro segnale, ma secondo dove è puntata adesso praticamente a nord-est, quindi a 180 gradi, quindi sicuramente chi sta ascoltando da quella parte il segnale è abbastanza forte. Va bene, fra, mi preparo allora, dai, ci vediamo lì fra un pochino, ok? Ciao fra, grazie di questo, dai, ci vediamo in verticale, vi facciamo le chiacchiere, ciao ciao.